Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Nel dicembre del 1919 viene pubblicato un libro fondamentale che mette in luce gli errori commessi dalle potenze vincitrici della Prima Guerra Mondiale, sia sul piano economico, con l'imposizione alla Germania di pesantissime e insostenibili riparazioni dei danni di guerra, sia sul piano politico. Titolo del libro: Le conseguenze economiche della pace. Autore uno dei più importanti economisti del Novecento, John Maynard Keynes, di cui ci siamo già occupati nelle scorse settimane, qui al nostro spazio dedicato alla storia economica, in occasione dell'anniversario dei 70 anni dalla morte. Un'opera che ebbe un eco e una risonanza mondiale, tanto da essere tradotto in 11 lingue. In quel libro Keynes trasse spunto dalla sua partecipazione in qualità di membro della delegazione del Tesoro inglese ai negoziati di Versailles sul trattato di pace tra le potenze vincitrici e la Germania. A rileggerlo oggi nelle riedizioni di Adelphi, quel libro appare profetico. Le decisioni assunte alla conferenza di Versailles, scriveva Keynes nel 1919, avranno come esito quello di una Germania umiliata e impoverita, creando con ciò le premesse per un nuovo conflitto mondiale. Se punteremo deliberatamente all'impoverimento dell'Europa centrale, la vendetta, io mi azzardo a prevedere, non potrà mancare. Ci sarà una nuova guerra davanti alla quale appariranno trascurabili gli orrori della recente guerra tedesca. Una guerra che distruggerà chiunque ne sarà il vincitore, la civiltà e il progresso della nostra generazione. Anche in queste ultime angosciose settimane, scrive Keynes il 7 giugno 1919, nella lettera a Lloyd George in cui comunica le sue dimissioni, ho continuato a sperare che trovaste un modo qualunque per fare del trattato un documento giusto e realistico. Ma ora è troppo tardi, evidentemente. La battaglia è perduta. Keynes non aveva mai sottoscritto la convinzione dei vincitori di avere combattuto, secondo la celebre formula di Wilson, la guerra che avrebbe posto fine a ogni guerra. E si era opposto invano alla miopia di Clemenceau, Lloyd George e dello stesso Wilson, distanti in tutto, ma concordi nel ridurre i problemi del dopoguerra a un mero fatto di frontiere e sovranità. Quel che avverrà, scriveva Keynes, sarà la scomparsa dell'ordine sociale come lo abbiamo fin qui conosciuto. Il rapporto della Commissione economica tedesca, incaricata di studiare gli effetti delle condizioni di pace sulla situazione della popolazione, riportava queste conclusioni. Tra brevissimo tempo la Germania non sarà in condizione di dare pane e lavoro ai suoi milioni e milioni di abitanti, cui viene impedito di guadagnarsi da vivere con la navigazione e il commercio. Chi firma questo trattato firmerà la condanna a morte di molti milioni di uomini, donne e bambini tedeschi. Ed ecco il commento di Keynes. Non mi risulta che queste parole abbiano avuto risposta adeguata. Questo è il problema fondamentale che abbiamo di fronte, rispetto al quale le questioni delle modifiche territoriali e sull'equilibrio europeo sono insignificanti. Ciò per la ragione che alcune delle catastrofi della storia, ritardatrici per secoli dal progresso umano, sono scaturite dalle reazioni all'improvvisa scomparsa, per eventi naturali o per opera dell'uomo, di condizioni temporaneamente favorevoli, che avevano permesso la crescita della popolazione oltre il numero sostenibile, quando le condizioni favorevoli ebbero fine. Clemenceau aveva una sola illusione, la Francia, e una sola delusione, l'umanità, inclusi i francesi e non ultimi i suoi colleghi. Per lui il tedesco era in grado di capire soltanto l'intimidazione. Arrendevoli Wilson e Lloyd George, sostanzialmente inconsistente Vittorio Emanuele Orlando. Di questo fondamentale libro del 1919 parliamo questa sera con la professoressa Daniela Felisini, docente di storia economica all'Università di Tor Vergata, che è in studio con noi. Buonasera professoressa, bentornata. Buonasera, grazie di avermi invitata a parlare di questo libro straordinario. Allora, partiamo proprio dal risvolto economico della conferenza di Versailles. Quali furono le conseguenze sull'economia tedesca di questo impianto che venne definito a Parigi? Secondo Keynes, le pesanti riparazioni imposte alla Germania dai paesi vincitori avrebbero portato alla rovina dell'economia tedesca, cosa che poi puntualmente si verificò durante l'iperinflazione del biennio 1921-23. La rovina delle classi medie e la dilagante disoccupazione avrebbe provocato un diffuso senso di scontento che nei primi anni 30, in conseguenza della Grande Depressione del 29, avrebbe poi aperto la strada all'avvento del nazismo. Alla fine, solo una piccola parte delle riparazioni fu effettivamente pagata ai vincitori. Beh, già, questo è un ruolo, un aspetto che non si conosce molto. Mentre le riparazioni avrebbero rappresentato un fattore di instabilità molto forte nelle relazioni economiche internazionali, confermando appieno la visione di Keynes, secondo il quale le conseguenze di una pace punitiva, come quella stabilita dal trattato, sarebbero state ben più distruttive di quelle della guerra. Infatti, allora, e parliamo proprio ora del ruolo di Keynes, del suo duro atto di accusa di fatto nei confronti di tutti i grandi di allora. Rivisto oggi sembra un po' anche singolare che un uomo, che un economista assumesse questo ruolo così forte, così polemico. Va sottolineata proprio la grande forza delle idee di Keynes, il suo coraggio di sfidare le concezioni consolidate. Lui in effetti era un economista ancora poco conosciuto al di fuori della cerchia di Cambridge. D'altra parte non si può dimenticare che di lì a un decennio Keynes sarebbe stato l'autore di una vera e propria rivoluzione delle concezioni economiche che ha condizionato tutta la storia del Novecento. Ritornando alla conferenza di pace, la sua idea era che questa non solo non avrebbe dovuto punire la Germania, ma anzi avrebbe dovuto porre le basi per la ripresa dell'economia europea, cancellando o riducendo grandemente i debiti di guerra. Ma il presidente degli Stati Uniti Wilson si oppose e ben pochi partecipanti alla conferenza sostennero le idee di Keynes. È in seguito a tale esperienza fallimentare che Keynes in 2 mesi, nell'estate del 19, scrisse il libro di cui stiamo parlando, in cui esprimeva opinioni nettamente controcorrente rispetto alle idee predominanti e si opponeva ad un primo ministro energico e popolarissimo come era allora Lloyd George. Va sottolineato che Keynes, stimatissimo funzionario del Ministero del Tesoro britannico, trovandosi in disaccordo con le posizioni del suo governo, molto coerentemente si dimise. Sì, anche questo è abbastanza singolare e importante. Tra l'altro, va sottolineato, l'abbiamo ricordato nella parte introduttiva, il suo giudizio molto tranchant sul rappresentante italiano, che pure era il rappresentante di una potenza che aveva vinto la guerra, e cioè Vittorio Emanuele Orlando, che viene relegato a un ruolo di sostanziale irrilevanza. Sì, lì c'è, diciamo, lui sostiene anche che Vittorio Emanuele Orlando appunto era irrilevante anche perché non parlava una parola delle lingue straniere, forse. Cosa non da poco. Allora, l'altro aspetto, se le tesi lungimiranti di Keynes non vennero seguite nel primo dopoguerra, come stiamo ricordando, di certo furono una base fondamentale di riferimento alla fine della Seconda Guerra Mondiale, se non altro per non commettere gli stessi errori del 19, cioè non si imposero condizioni altrettanto stringenti alla Germania. Effettivamente, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale vi fu una grande attenzione alla ripresa dell'economia europea come fattore di stabilità e di pace. Lo testimoniarono in certa misura il piano Marshall, ossia il programma di aiuti varato dagli Stati Uniti nel 1948 per favorire la ripresa dei paesi europei e di cui beneficiarono, non lo dimentichiamo, non solo i paesi vincitori ma anche i vinti, pur nel quadro della guerra fredda. Certo. Un'altra testimonianza sono i primi passi dell'integrazione europea, ad esempio la CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, puntava proprio a superare la storica rivalità franco-tedesca. Una lezione che ancora oggi dobbiamo tenere a mente sulla necessità di gestire con attenzione le transizioni e i dopoguerra. E dal punto di vista della storia economica, materia che lei insegna all'Università Tor Vergata, come è possibile trasmettere, ecco, ai suoi studenti, come trasferisce il messaggio di questo libro fondamentale, che è profetico, perché praticamente lì dentro c'è scritto tutto quello che sarebbe avvenuto negli anni successivi. Gli studenti sono consapevoli della rilevanza di una profezia del genere? Beh, agli studenti va insegnato, perché diciamo non è facile per loro che hanno una visione, quella che Carlo Cipolla chiamava la visione ex post, come tutti, ma insomma, e non sanno tararla, che qualcuno abbia potuto prevedere anche una seconda grande guerra mondiale, quindi abbia potuto prevedere quella che poi gli storici più recentemente hanno chiamato una guerra civile europea lunga 40 anni, diciamo in qualche modo. Il maggiore biografo di Keynes, Skidelsky, lo ha definito un visionario pratico. Sì, infatti. Ed effettivamente lui aveva questa straordinaria capacità di, appunto, una capacità profetica di leggere il futuro, pur avendo una grande, diciamo, essendo fortemente basato nel suo presente, diciamo, cioè, non così. Non erano parole in libertà, negli diciamo. Negli ultimi tempi stiamo assistendo a una riscoperta a tutto tondo del pensiero di Keynes, anche in funzione delle sue teorie esposte nel 1936 nella teoria generale, e sostanzialmente di sostegno all'economia in deficit. Poi questa è la vulgata. In realtà il pensiero di Keynes è molto più articolato. Molto più articolato, molto più complesso, anche delle varie traduzioni keynesiane che nel secondo dopoguerra sono state fatte, no? In cui qualsiasi tipo di intervento pubblico è stato chiamato keynesismo. Il pensiero di Keynes andrebbe riletto, così come peraltro anche quello di Smith, no? Pensiamo quante volte abbiamo sentito la mano invisibile del mercato, che sì, è un'espressione che Smith avrà usato sì o no una volta. Certo. Dunque il pensiero di dei grandi economisti, ma di Keynes in particolare, andrebbe fatto leggere direttamente, più insegnato agli studenti. Ha ragione lei. Io ho proposto per anni questo testo, Le conseguenze economiche della pace, agli studenti. Mi sono resa conto poi che era un testo molto complesso per loro. Molto complesso. Molto complesso. Bene, allora speriamo che la trasmissione di questa sera induca i nostri ascoltatori a andare a leggerlo o a rileggerlo. Grazie, professoressa. Buona serata. Grazie a voi. Buonasera.